Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Misure anti-Covid, ha approvato il decreto, spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio, limiti ulteriori a Natale e Capodanno. Dal 7 gennaio poi la ripartenza, il DPCM prevede scuole superiori in presenza al 50% e via libera anche alle piste di sci. Istat, PIL italiano in calo quest'anno dell'8,9%, rimbalzo previsto per l'anno prossimo a più 4%. La Via Lattea composta da 2 miliardi di stelle, il ritratto della galassia dettagliato come mai fino ad ora grazie alla missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, approvato il decreto, la firma ci sarà oggi sul nuovo DPCM, entrerà in vigore domani. Restano ancora da definire alcuni particolari nelle misure anti-Covid. Si va verso un Natale con tutte le regioni gialle, ma con alcune restrizioni per tutto il paese. No, infatti, agli spostamenti tra regioni. Si cercherà tuttavia di garantire i ricongiungimenti familiari nei casi di anziani soli. Sono appunto ancora da definire alcuni aspetti. Cominciamo con quello che c'è di sicuro. La linea prudente del governo è già in gazzetta nel decreto legge approvato ieri sera. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi tra regioni e il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio anche tra un comune e l'altro. No alle seconde case se fuori regione. Fino al 20 dicembre invece resta libero lo spostamento tra regioni in fascia gialla, che potrebbero salire a 13 dopo i dati settimanali di domani. Conte firmerà invece in serata il nuovo DPCM in vigore da domani al 15 gennaio. Nella bozza inviata alle regioni si conferma il coprifuoco in tutta Italia dalle 22 alle 5, esteso fino alle 7 la mattina di Capodanno. I ristoranti restano aperti solo fino alle 18, aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ristoranti chiusi negli hotel e niente crociere dal 21 dicembre al 6 gennaio. Negozi aperti fino alle 21, ma i centri commerciali restano chiusi nei weekend festivi. Gli impianti sciistici restano chiusi, ma potranno aprire dal 7 gennaio. Nelle scuole superiori le lezioni tornano in presenza dal 7 gennaio, ma solo al 50% minimo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi anche previsto anche un nuovo incontro tra le regioni per mettere a punto alcune limature e, come dicevamo, proposte di integrazione del DPCM, in particolare sugli spostamenti. Nel pomeriggio ci sarà l'ultimo confronto con le regioni. Il nuovo DPCM sarà poi firmato dal presidente del Consiglio Conte, che dovrebbe illustrarne i contenuti in una conferenza stampa. I governatori, che in mattinata hanno esaminato la bozza del provvedimento, insistono su un allentamento di alcune restrizioni, in particolare quelle sugli spostamenti, che a loro giudizio penalizzerebbero i comuni più piccoli, una richiesta sostenuta soprattutto dai presidenti delle regioni amministrate dal centrodestra. Sempre dall'opposizione, il leader leghista Salvini parla di DPCM pessimo che divide gli italiani. Dalla maggioranza invece, Italia Viva giudica senza senso la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel governo sembra però prevalere la linea del rigore. L'esecutivo ha fatto anche sapere che impugnerà la legge regionale con cui la Valle d'Aosta ha rivendicato la sua autonomia nella gestione dell'emergenza sanitaria per consentire un allentamento delle misure anti-Covid sul proprio territorio. Per tutta risposta la regione ha annunciato che impugnerà l'ordinanza con cui il ministro della Salute Speranza l'ha lasciata in zona rossa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora facciamo il punto anche sulle novità sul fronte vaccini. Tutti vaccinati entro fine estate o inizio autunno, così Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico, ad Agorà su Rai 3. Il 29 di dicembre, il 12 di gennaio, l'Agenzia Europea del Farmaco si pronunzierà compiutamente entro la fine dell'estate, i primi mesi dell'autunno dovremmo aver completato tutto il piano di somministrazione di quella che a tutti gli effetti può a buon diritto essere definita la più grande campagna di vaccinazione di massa che ha mai avuto corso nel paese. Cominciano dunque ad arrivare degli obiettivi di tempo per il vaccino, che già ieri il ministro Speranza aveva chiarito. Sarà gratis per tutti e si partirà con la vaccinazione di categorie fragili. Intanto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, spiega: chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali. Semmai, dice, dovrà controllare il livello di questi anticorpi e quando questi dovessero scendere si può riconsiderare una vaccinazione. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giorgio Palù sarà il nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La conferenza delle regioni, in seguito alle dimissioni di Domenico Mantoan, divenuto nel frattempo direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Agenas, ha proposto infatti il nome di Palù, ex professore ordinario di microbiologia e virologia, al ministro della Salute Speranza. La nomina sarà ratificata oggi in conferenza Stato-Regioni. Adesso la politica: nessun rischio per la tenuta del governo, così il ministro della giustizia, capo delegazione Movimento 5 Stelle nell'esecutivo, Alfonso Bonafede. Dai microfoni di Radio 24, Bonafede ha commentato la decisione di 16 senatori e 42 deputati pentastellati, che ha provocato un po' di fibrillazioni, la decisione cioè di scrivere una lettera ai vertici del movimento contro la riforma del MES. Sentiamo Bonafede. È evidente, c'è una diversità di opinioni all'interno della maggioranza, c'è sempre stata, e il Movimento 5 Stelle su questo è chiaro, non voterà mai a favore dell'utilizzo del MES. Quello di cui si sta parlando è un'altra cosa, e ripeto, il Presidente del Consiglio andrà in Parlamento e avrà tutto il sostegno. Il governo non rischia, secondo lei? No. E ora le notizie economiche: i dati Istat sul PIL, che viene rivisto leggermente al ribasso per quest'anno con un calo dell'8,9%. Il rimbalzo previsto invece nel 2021, secondo l'Istat, sarà del 4%. Il Parlamento intanto si riaccende il dibattito sulla patrimoniale. Torna in gioco la patrimoniale proposta in Parlamento con un emendamento alla legge di bilancio firmato dai deputati Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Matteo Orfini del PD. Dopo una prima bocciatura e ricorsi contro la decisione, la Commissione Bilancio della Camera ha riammesso ai voti l'emendamento sulla patrimoniale per le difficoltà a stimare gli effetti di gettito della proposta. Fratoianni e Orfini propongono di abolire per tutti l'IMU e l'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli, da sostituire con un'imposta sui grandi patrimoni di almeno 500.000 euro, una somma determinata dalle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie possedute in Italia e all'estero. L'emendamento prevede un prelievo che parte dallo 0,2% per i patrimoni tra 500.000 euro e 1 milione e arriva al 2% per i patrimoni superiori ai 50 milioni di euro. L'opposizione preannuncia battaglia, la Lega si dice pronta a fare le barricate a difesa dei risparmi, Forza Italia darà battaglia contro nuove tasse, mentre due deputati dei 5 Stelle hanno sottoscritto la proposta della patrimoniale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Non è accettabile che le imprese non vengano coinvolte preventivamente nella gestione dell'emergenza economica prodotta dalla pandemia, lo ha detto oggi il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso dell'evento digitale Smartland organizzato dal gruppo 24 Ore, nel quale si è parlato della necessità di rilanciare gli investimenti europei e nazionali. Manca una sinergia tra pubblico e privato per gli investimenti a livello nazionale, a partire dagli indennizi alle imprese frammentari e dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo è l'appello del presidente di Confindustria Carlo Bonomi all'evento digitale Smartland della Lombardia, organizzato dal Sole 24 Ore. Sarebbe bastato chiedere a una qualsiasi azienda quale fosse il primo problema da risolvere, per sapere che è mancata la copertura dei costi fissi rispetto alle minori entrate generate dalle restrizioni amministrative, la cui soluzione non è certamente quella di ricorrere al debito. Non era e non è accettabile che le imprese non vengano coinvolte preventivamente nella gestione dell'emergenza economica prodotta dalla pandemia. Sinergia che invece si è realizzata a livello regionale proprio in Lombardia, come spiega il presidente della regione Attilio Fontana, che nel suo intervento fa anch'egli un appello al governo a coinvolgere più che i tecnici, gli enti locali, regioni, comuni e province. Il recovery fund è un mezzo, sono risorse attraverso il quale si può veramente impostare o reimpostare il futuro del nostro paese. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca adesso: stabilimenti e allevamenti di animali per un valore di circa 1 milione di euro sono stati sequestrati oggi dai carabinieri nel corso dell'operazione Fox condotta dai NAS nel Crotonese, ma non solo. 6 arresti, sentiamo. Siete certi furbacchioni, tu ti vendi i vitelli, noi parliamo al telefono e poi viene Gratteri. A parlare così, intercettato dai carabinieri del NAS, era uno dei veterinari rimasti coinvolti nell'operazione Fox, che stamani ha portato all'arresto del gestore di uno stabilimento di macellazione di strongoli e di un'impiegata amministrativa. Ai domiciliari, 4 veterinari dell'ASP di Crotone in servizio nei distaccamenti di Ciro Marina e Rocca Bernarda. Sono scattate anche 2 sospensioni dal servizio per altri 2 veterinari. Una frase, quella del medico, che secondo gli investigatori testimonia la consapevolezza del comportamento illecito tenuto. Stabilimenti ed allevamenti di animali per un valore di circa 1 milione di euro sono stati sequestrati, perquisiti anche numerosi allevamenti delle province di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, i cui titolari sono stati denunciati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, negli Stati Uniti, resta critica la situazione sul fronte della pandemia. Ieri è stato raggiunto un nuovo record di ricoverati, con oltre 100.000 persone, di cui 20.000 sono ricoverate in terapia intensiva. La battaglia per i diritti umani nel mondo si accende in questi giorni grazie a 2 casi, 2 vicende che conquistano l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. Dopo la condanna di ieri a 13 mesi e mezzo di carcere per Joshua Wong e per altri 2 tra i più noti attivisti pro-democrazia di Hong Kong per incitamento, organizzazione e partecipazione ad una manifestazione illegale, oggi nella ex colonia britannica è stato arrestato il tycoon Jimmy Lai. Il 73enne magnate dei media, proprietario del tabloid Apple Daily e schierato a favore delle riforme democratiche, è comparso in tribunale con l'accusa di frode, ultimo dei procedimenti penali contro attivisti critici verso Pechino, ed è finito in manette dopo che gli è stata negata la libertà su cauzione per il rischio di fuga. Il suo processo partirà ad aprile. Intanto dal Cairo l'avvocatessa di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna arrestato in Egitto a febbraio per propaganda sovversiva, ha fatto sapere che il ragazzo dorme sul pavimento della cella da quando è detenuto, soffre per il mal di schiena e chiede rimedi contro il dolore. Infine, dagli Stati Uniti arriva la notizia che verranno limitati gli ingressi per i membri del Partito Comunista Cinese. Proteste formali per questa limitazione da parte di Pechino. È un'escalation di repressione politica contro la Cina per pregiudizi ideologici, ha commentato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era una notizia di carattere scientifico con la nuova fotografia della Via Lattea. Sembra impossibile, ma le stelle si possono contare. Nella Via Lattea ne sono state censite finora 1.811.709.771. Se ne dà conto nel nuovo catalogo astronomico firmato dalla Early Data Release 3 della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, a cui partecipano l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'obiettivo è realizzare la più accurata mappa tridimensionale della nostra galassia, ha spiegato Barbara Negri, responsabile volo umano e strumentazione scientifica dell'ASI. E i nuovi dati infatti mostrano anche i movimenti oscillatori delle stelle nelle frange più esterne della Via Lattea, la rotazione delle stelle nella grande e nella piccola nube di Magellano e gli 1,6 milioni di quasar, i cuori di galassie lontane. Osservazioni che hanno permesso di stimare l'accelerazione del sistema solare nel suo moto intorno al centro della Via Lattea, pari a 7 mm al secondo nel corso di un anno. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport e il calcio, serata positiva ieri per le italiane con la netta vittoria 3-0 della Juve sulla Dinamo Kiev, il pari esterno della Lazio con il Borussia Dortmund. Ne parleremo ancora più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Misure anti-Covid, approvato il decreto, spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio, limiti ulteriori a Natale e Capodanno. Dal 7 gennaio invece la ripartenza, da quella data il DPCM prevede infatti scuole superiori in presenza al 50%, via libera anche alle piste di sci. Istat, PIL italiano in calo quest'anno del 8,9%, rimbalzo previsto per l'anno prossimo a più 4%. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, è con noi Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Fedriga, stiamo aspettando la firma che arriverà questa sera del DPCM, il decreto approvato nella notte, lo avete visionato, oggi ci sarà anche un incontro proprio tra le regioni per mettere a punto alcune integrazioni a queste nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore da domani. Riassumo brevemente, poi le chiedo subito un commento. Quello che si sa fino ad ora: viene confermato sostanzialmente il sistema delle regioni colorate, gialle, arancioni e rosse, dovremmo essere tutti gialli verso la metà di dicembre, quindi chiusura coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 di mattina, si conferma, così come l'orario di chiusura dei ristoranti alle 18, quindi ristoranti aperti ma chiusi la sera. E poi c'è il tema degli spostamenti bloccati dal 21 dicembre al 6 gennaio, quelli tra le regioni, e nei giorni di Capodanno e Natale anche tra comuni diversi. E questo so che è un punto ancora un po' in discussione. La scuola potrebbe tornare in presenza, per quanto riguarda le superiori, dal 7 gennaio, ma solo al 50%. Le chiedo intanto un commento se ritiene adeguate queste misure, poi le chiedo anche se ha qualche notizia in più, Federica. Sì, guardi, noi abbiamo un problema, penso di poter parlare a nome delle regioni in generale, soprattutto col decreto sul quale non siamo stati consultati, e soprattutto crea una disparità importante tra i cittadini del paese. Lei basti che provi a pensare: chi abita a Roma ha a disposizione servizi per milioni di abitanti, perché è lo stesso comune; chi abita in un comune da 200, 300, 400 anime di fatto ha dei diritti diversi rispetto invece a chi è in un grande comune. Cioè lei si riferisce al limite di spostamento tra comuni nei giorni di Natale e Capodanno, questo è il punto. Esatto, cioè creiamo una disparità molto importante per i cittadini, ma pensiamo per le attività economiche. Io non credo che sia più pericoloso stare magari potersi spostare in comuni limitrofi, magari dove la totalità della popolazione può essere 100.000 abitanti, rispetto che spostarsi in una metropoli come appunto può essere Roma, dove invece sono milioni di abitanti che si spostano. Quindi io su questo, secondo me, bisognerebbe fare un intervento. È chiaro che si è intervenuto tramite decreto e quindi questo crea un ulteriore problema, perché non cioè può essere soltanto cambiato con un altro decreto del governo nella riconversione, che non c'è tempo. È giusto, Federica, il decreto dovrebbe essere una cornice, il DPCM deve essere ancora firmato, potrebbe recepire queste vostre osservazioni? Io la vedo difficile rispetto al decreto stesso, perché è una fonte primaria, è il decreto, quindi il DPCM difficilmente lo può contraddire rispetto a quanto scritto nel decreto stesso. Quindi su questo noi abbiamo espresso proprio la perplessità nella conferenza delle regioni che ecco, stiamo tenendo. Vedremo se verrà accolta e eventualmente in che modo si cercherà di metterci una toppa su questa, che mi sembra una obiezione ragionevole. Quali sono gli altri nodi aperti su cui si sta ancora limando, Federica? Non so se si stia ancora limando, perché questo dipende dal governo. Diciamo che altre criticità espresse dalle regioni è sulla questione del trasporto pubblico locale, dove vengono fatti questi tavoli in prefetture, nelle prefetture provinciali, e poi il Presidente della Regione semplicemente fa la firma su quanto viene deciso su altri tavoli, sì. Che mi sembra alquanto particolare. Io tengo a sottolineare una cosa: io credo che sia necessario continuare a tenere un'attenzione altissima e un comportamento rigoroso, questo sì. Sia ben chiaro, perché non dobbiamo lasciare o lanciare messaggi che la pandemia stia finendo. Siamo in mezzo alla pandemia, malgrado la curva stia salendo, ma i numeri sono ancora molto alti. Però? E quindi è importante che il comportamento di ognuno sia veramente importante. Però proprio perché il comportamento di ognuno e l'impegno di ognuno è importante, servono misure e norme che siano comprensibili e siano eque, altrimenti rischiamo di non portarci dietro la popolazione. Ecco, però mi spieghi meglio, perché qui per esempio per la questione delle scuole e dei trasporti il nodo è abbastanza evidente. Da quel che si è capito, il governo, lo stava confermando anche lei, vorrebbe istituire questi tavoli coordinati dai prefetti per, come dire, rendere in qualche modo impositivo lo scaglionamento degli orari d'ingresso nelle scuole, cosa che sin qua non si è riusciti a fare. Io credo per la semplice ragione che finché si lasciano le scuole libere di decidere, è forte il rischio che queste decisioni non siano coordinate, quindi non si ottenga l'effetto di spalmare l'orario ingresso dalle 7:30 a 8:30 fino invece arrivare alle 9:30, 10, 10:30 del mattino. Questi tavoli, secondo lei, sono una decisione corretta con il coordinamento dei prefetti per fare questo passo in avanti, oppure qual è l'altra soluzione? Perché fino ad ora di altre soluzioni non se ne sono viste, nemmeno le regioni sui trasporti hanno investito, a dire la verità, molto. No, guardi, su quello noi come regioni, se permette, fisco alla fine, abbiamo cercato di investire il possibile. E perché dico il possibile? Perché fin dall'inizio dicevamo che ci deve essere un'alleanza e un coordinamento tra scuola e trasporti. Perché se qualcuno pensa che si possa portare la scuola al 100%, soprattutto nei centri urbani, utilizzando gli autobus turistici, è tecnicamente impossibile farlo. No, ma lasciamo stare questo. Adesso l'ipotesi è quella di scaglionare gli orari di ingresso, cosa di cui si parla da maggio e che a settembre, questo lo sto dicendo a lei, ma naturalmente non dipende da lei, dipende dal governo, si poteva già pensare e arrivarci pronti a settembre dopo quest'estate. Invece non si è fatto. Io su quello sono pienamente d'accordo con lei, ma le dico, non glielo sto dicendo adesso, ma è quello che non Federica, ma tutte le regioni hanno chiesto fin dall'inizio. Ma si ricorderà altrettanto che il ministro dell'istruzione più volte ha detto che non si può superare l'autonomia scolastica. Io ricordo un intervento molto chiaro che ho fatto durante una riunione, ho detto con decreti legge, con DPCM, state entrando a pie pari nelle competenze delle regioni per l'emergenza. Non discuto se è giusto o sbagliato, ma lo state facendo. Facciamolo anche non per le scuole. Perché non si può fare per le scuole quando serve, ma per garantire ai ragazzi, capito male io, diversi la presenza. Sì, ho capito male io, Federica, o questo intervento dei prefetti dovrebbe servire proprio a superare questa questione dell'autonomia scolastica e a obbligare, ma è una parola brutta, ma non c'è niente di strano, siamo in mezzo a una pandemia gravissima, le scuole ad entrare anziché alle 8, alle 9 o alle 10. Ma infatti io credo che la proposta utile sia quella che ci sia un coordinamento tra regioni, prefetture e scuole per prendere una decisione, e su questo non c'è dubbio. Altrimenti non ne usciamo. Sono pienamente d'accordo. Capisce però che è un po' strano che venga fatto un tavolo dove la regione è presente con i suoi uffici per delle infrastrutture e trasporti, e dopo da quel tavolo esce l'ordinanza alla firma del presidente della regione che non partecipa neanche alle scelte. Anche qua c'è qualcosa da limare. No, dopo rischiamo di creare il caos istituzionale invece che risolvere i problemi. Un'ultima cosa, Federica, è una cosa positiva che lei ha annunciato qualche giorno fa, la sua regione sta sperimentando i test salivari e lei ha detto ci sono risultati molto molto incoraggianti, test rapidi, addirittura parla di una svolta. Molti in queste ore pensano di farsi un tampone, no, prima di ricongiungersi anche coi familiari per creare una bolla, diciamo, un po' più sicura. Di che si tratta di questi test? Sono quelli antigenici o quelli molecolari? Le chiedo intanto. No, infatti non sono rapidi, sono molecolari, quindi sono estremamente accurati. Danno addirittura, mi dicono, dei risultati dalle prime sperimentazioni più affidabili rispetto al classico tampone molecolare, perché proprio si riesce, non entro nel tecnicismo, ma di fatto si riescono a prendere una quantità di cellule sufficienti per rendere gli esami più affidabili. E quali vantaggi hanno, però? Il grande vantaggio è quello di riuscire a sgravare tutto il personale sanitario dall'effettuare il prelievo. Noi abbiamo una carenza enorme in questo momento, pensiamo negli ospedali, pensiamo nel tracciamento di medici e infermieri. L'imbuto è quello, le risorse umane. Dopo è chiaro che c'è un problema poi di macchinario che elabora il dato, ma intanto se riusciamo a sgravare da quell'onere il personale, vuol dire che lo recuperiamo per fare attività estremamente importanti. E quando sarà pronto questo test salivare molecolare? Guardi, noi lo stiamo sperimentando ulteriormente questa settimana, dopodiché lo manderemo all'Istituto Superiore della Sanità per la validazione. Io spero che in una decina di giorni riusciremo a avere dei dati da poter inviare e quindi da avere una risposta, ma è chiaro che cambia totalmente la prospettiva perlomeno dell'impiego di personale, che in questo momento è fondamentale. Ce l'auguriamo. Grazie Massimiliano Federica. Presidente del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Benissimo, allora andiamo avanti e apriamo una finestra dedicata allo sport, perché come sapete anche lo sport amatoriale, giovanile, di contatto ha subito forti limitazioni, praticamente non si può quasi più fare in questo periodo. Ebbene, il nostro Dario Ricci ha scovato un'esperienza per superare queste limitazioni nel volley, in sicurezza. Sentiamo come. Tiago, proviamo col muro, resta in campo cubano, pallone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Berrati, campioni del mondo! 30 anni fa l'Italia di Julio Velasco vinceva per la prima volta il titolo mondiale di volley, primo di tanti allori della generazione dei fenomeni della nostra pallavolo. Oggi, causa pandemia, già è tanto se si riesce a giocare sotto rete. Eppure giocare bisogna, soprattutto a livello giovanile, scolastico e amatoriale, in sicurezza e nel rispetto delle distanze. Insomma, un volley sicuro, o meglio un secure volley. Proprio così si chiama una forma di pallavolo riadattata alle esigenze imposte dal Covid-19. Campo diviso in settori, 7 giocatori dentro e al lato delle linee di gioco che interagiscono senza toccarsi e senza invadere le diverse zone di competenza. A idearlo un tecnico e insegnante perugino, Riccardo Provvedi. Secondo me è proprio questa l'idea, cioè nel senso cambiare un pochino prospettiva in modo da mettere in campo qualcosa, e se ci costringe ad alcuni adattamenti, d'accordo, li faremo, ma non per questo rinunciamo a fare movimento, a fare attività. Idea condivisa anche dai campioni. Andrea Lucchetta, capitano di quella nazionale iridata nel 1990, rilancia i progetti e i protocolli già messi in campo dalla federazione con volley S3 e spikeball, varianti per favorire l'educazione al gioco anche in tempi di pandemia. La vera novità che è lo spikeball, è la vera novità, perché veramente all'interno della scuola, se una maestra vuole, con un palloncino, con una rete, puoi fare con qualsiasi cosa, puoi far giocare i bambini dentro i corridoi e possono giocare e fare quello che vogliono, con le mascherine, che tanto alla fine non è un problema. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora, alle 13:29 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ci fermiamo per un piccolo break, vi rilancio la possibilità di scrivere i messaggi per commentare quello che avete sentito sin qua al 349-238-6666, ce ne sono già molti sulla questione delle scuole, tra poco leggiamo dopo l'intervista con Federica, poi rientreremo e parleremo dell'appello di librai e cartolerie contro di fatto Amazon, una lettera appello inviata al ministro Azzolina, a tra poco. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Misure anti-Covid, approvato il decreto spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio, limiti ulteriori a Natale e Capodanno. Dal 7 gennaio poi la ripartenza, il DPCM prevede scuole superiori in presenza al 50%, via libera anche alle piste da sci. Stati Uniti ancora in forte emergenza, ieri toccato il record di contagi a quota 100.000, 20.000 le persone in terapia intensiva. Contro Amazon, l'appello di librerie e cartolerie al ministro Azzolina, le scuole non promuovano le iniziative del colosso digitale, ne parliamo tra poco. 13:36, eccoci qua di nuovo in diretta con i vostri messaggi al 349-238-6666. Sulla questione scuole, scrive un ascoltatore, benissimo scaglionare gli ingressi alle scuole anche fino alle 10-11 di mattina, ma se poi non ci sono gli autobus diventa inutile. Speriamo l'intervento dei prefetti possano riuscire laddove le regioni hanno fallito, scrive Alvise. E il tentativo è proprio questo, perché fino ad ora non si è riusciti a imporre alle scuole un coordinamento, ma chiaramente questo ci sarà necessario, perché se si attende che spontaneamente ci siano delle scuole che vogliono aprire alle 10 di mattina, questo non avverrà, bisognerà imporlo a qualche scuola con qualche sistema appunto di coordinamento, saranno i prefetti a farlo. Per la questione invece dello sport, il servizio di Dario Ricci sul volley sta venendo fuori questa cosa qua, dice, due ascoltatori dicono: non è vero che lo sport dilettantistico di contatto si è fermato. A Ferrara, per esempio, le scuole calcio vanno avanti come se niente fosse, non ci si cambiano gli spogliatoi, non si fa la doccia, si va direttamente in campo, poi tutto finito, si torna in macchina. Così anche un altro ascoltatore: vuoi vedere che dobbiamo fare un'inchiesta su questo? Perché dal decreto, se non ricordo male, del 13 ottobre, questo non dovrebbe poter avvenire, per ovvie questioni di possibilità di contagio. Va bene, il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. I capricci del tempo creano sorprese ai limiti del cinismo. Nel giorno dell'addio a Valéry Giscard d'Estaing, che fu presidente tra l'altro della Convenzione per la prima Costituzione europea, il governo deve fare i conti con la crepa prodotta nei 5 Stelle dal voto di ratifica alla riforma del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Gira una lettera firmata in un primo tempo da 52 deputati e 17 senatori grillini, che però si sono già assottigliati in nottetempo. In teoria i voti al MES non ci sarebbero e in caso di bocciatura la crisi di governo sarebbe inevitabile. Ma nella stessa lettera i dissidenti scrivono di non voler in alcun modo mettere a rischio la maggioranza. Ed eccola di nuovo la nostra dissenting opinion alla matriciana. Il no è anche un sì, anche perché magari Forza Italia darà una mano con il gioco delle assenze dall'aula al momento del voto. Questo passa il convento in questi tempi grami di pandemia. Che distanza rispetto a quello che Giscard d'Estaing e gli altri costituenti europei avevano scritto nel prologo alla Costituzione europea. L'Europa come grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana. Volava così alto che le bagatelle da cortile della politica nostrana sembrano baruffe di bimbi e farebbero tenerezza se non ci fosse da disperarsi. E allora, come anticipato, ecco noi Cristina Giussani, presidente nazionale del sindacato italiano librai e cartolibrai di Confesercenti, benvenuta, buongiorno. Grazie mille, grazie a voi dell'invito. Allora, avete scritto una lettera appello al ministro Azzolina, di fatto contro Amazon, ma non proprio direi. Allora, l'iniziativa che avete preso di mira è questa: si può ordinare su Amazon, fare degli ordini normali, si può dedicare l'1% di questi acquisti ad una scuola, dedicarlo, proprio donarlo ad una scuola che poi avrà un credito per comprare a sua volta dei prodotti sempre su Amazon, una iniziativa commerciale. Voi però non ce l'avete tanto con questo, quanto con le scuole che dicono ai genitori, i presidi dicono agli insegnanti, ai genitori di aderire a questa promozione commerciale e voi qui dite no. Perché? Ma noi ce l'abbiamo un po' con tutte e due le cose, nel senso, noi ce l'abbiamo prima di tutto col fatto che si conceda ad Amazon di continuare a fare quello che vuole, no? Quindi Amazon fa queste promozioni che servono a drenare acquisti dalle librerie e cartolibrerie, parliamo dei libri, ma poi vale per tutti i settori, Amazon ovviamente. Loro hanno una potenza economica di fuoco tale per cui si possono permettere queste opportunità che ovviamente nessun altro si può permettere, men che meno i piccoli indipendenti. Cosa succede? Succede che portano via il lavoro ai librai. Al tempo stesso noi non capiamo perché le scuole devono promuovere un privato che è Amazon a fare delle iniziative del genere. E oltretutto un privato che sappiamo benissimo come non paga le tasse, come lavora, eccetera, eccetera. Avete quindi ricevuto una risposta dal ministro Azzolina? Dal ministro Azzolina ancora no. Sappiamo che in questi giorni però i nostri ministri sono molto presi da tante altre cose. Vabbè, quindi, sì, però anche questo non è un tema trascurabile. È un tema molto importante, anche perché la nostra posizione è questa. Quando avranno chiuso tutte le librerie e cartolerie e forse molti altri negozi di vicinato, che città avremo? Cioè Amazon non fa nulla per nulla. Assolutamente, no? Giussani, questo è un tema di cui si è parlato tanto. Io infatti le vorrei chiedere proprio questo, perché insomma, che si possa bloccare Amazon mi sembra impossibile, anche inutile, forse controproducente da un certo punto di vista, perché poi è un servizio apprezzato anche dai consumatori. Però sappiamo anche che voi librai, voi che avete i negozi insomma nelle città, siete anche un presidio fondamentale, no? Di socialità, di interessi, di cultura, di vita, anche se in questo momento con delle limitazioni ovvie che ben conosciamo. Come se ne esce? Ci vogliono forse delle proposte per rilanciare questa filiera, no? del negozio di prossimità e delle librerie in particolare. Avete delle idee in campo, delle proposte per fare una sinergia con il Ministero per quanto riguarda le scuole o anche con i comuni per quanto riguarda il territorio? Allora, noi sì. Intanto i librai subito dopo, anzi durante il lockdown precedente e subito dopo, si sono molto attivati con grande creatività, con consegne a domicilio, con spedizioni, eccetera, che magari prima non facevano. Poi abbiamo, dopo tanto tempo, dopo tante nostre richieste, abbiamo il ministro Franceschini che ha appena aperto un tavolo di lavoro con tutta la filiera e quindi nella filiera ci sono le reti di collaborazione, le reti di promozione, perché poi ci sono dentro anche le biblioteche, gli editori e tutto. Quindi stiamo mettendo in campo, grazie al ministro, al MIBACT, stiamo mettendo in campo un sistema che speriamo serva. Noi abbiamo chiesto al ministero, per esempio, dei finanziamenti per mettere in rete le librerie, per fare una specie del grande portale di vendita delle librerie indipendenti piuttosto che di Amazon. Perché metterci sul marketplace di Amazon quando magari lo possiamo fare noi? Dando doppia opzione, anzi tripla opzione. Ti dico che libri ho, vieni in libreria, te li porto a casa con consegna a domicilio, magari già anche in giornata, oppure te li spedisco. Quindi cose che magari anche Amazon non riesce a fare. Chiaro, insomma, proposte concrete. Certo. I piccoli, quindi, possono attrezzarsi, soprattutto se riescono poi a avere, questo bisogna dirlo, un sostegno, un coordinamento, un incentivo da parte delle istituzioni, delle nazionali, dei ministeri. Io ringrazio Cristina Giussani del Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai, perché effettivamente senza questo coordinamento è chiaro che la battaglia è persa. Nessuno, io personalmente uso Amazon, non ce l'ho contro Amazon, però vorrei che i negozi potessero in qualche modo avere ancora una chance da giocarsi invece l'accesso al turno di Champions League e di Europa League. Carlo Gente, è accaduto ieri e accade anche oggi. Sì, è accaduto ieri per quanto riguarda la Champions. Beh, la Juventus aveva già il risultato in tasca, ha vinto comunque riallacciando il discorso della vittoria 3-0 sulla Dinamo Kiev. Segno Ronaldo, segno Morata, quindi i protagonisti più attesi in una partita che però di fatto per la classifica non aveva niente da dire. La Lazio ottimo 1-1 a Dortmund, è sempre più vicina alla qualificazione, anche se non ancora certa, però la Lazio basterà un pareggio in casa con il Bruges all'ultimo giro di pista. Questa sera si chiude la settimana delle coppe, ma il riposo sarà breve perché la settimana prossima si gioca ancora, con l'Europa League alle 18.55 il Milan deve battere il Celtic per mantenere il secondo posto nel suo girone. Importante la trasferta del Napoli sul campo della AZ Alkmaar, che all'andata nella prima gara vinse al San Paolo a sorpresa, e la Roma già passata riceve lo Young Boys, anche in questo caso si tratta solo di statistica. Bene, benissimo, partite comunque da vedere, da goderci. Grazie Carlo, l'appuntamento con lo sport dopo il GR delle 14. Noi invece tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.